Oggi comincia la conversione in legge dell'ex DDL 1660, che quindi il governo ha tagliato il percorso parlamentare inizio aprile facendolo diventare un decreto, quindi imponendo la consueta logica del voto di fiducia e così silenziando tutte le voci di opposizione. Quindi oggi ci saranno chiaramente proteste in tutta Italia, noi oggi siamo sotto la prefettura, quindi sotto la rappresentanza territoriale del governo, per dire che questo decreto non può passare senza opposizione politica e sociale, per dire che questo è un decreto che crea la repressione che è necessaria a questa fase di guerra. Però non sarà l'unica mobilitazione dei prossimi giorni? No, appunto, abbiamo saputo che domani a Bologna ci sarà la stessa Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quindi noi ci uniamo alla chiamata di cambiare rotte di Osa, che hanno chiamato una contestazione domani a partire dal Parco Don Bosco, che in generale ha tutte le forze che si opporranno alla passerella istituzionale di un governo che non risolve i problemi sociali e li fa diventare problemi di ordine pubblico. Crea con questo nuovo decreto una serie di fattispecie di reato per seppellire sotto la minaccia di anni e anni di carcere qualunque tipo di protesta sociale. Domani tra l'altro Meloni sarà da Confindustria, contro cui insomma puntate il dito. Certamente, ovviamente siamo in un momento in cui si somma la crisi industriale in generale e la trasformazione in una economia di guerra, quindi ci sono decine di crisi industriali in questa provincia. Noi pensiamo che ritrasformare l'industria bolognese in un'industria bellica, anche nascondendosi dietro a nomi altisonanti come industria aerospaziale, in realtà non sia una soluzione, perché questo tipo di trasformazione bellica non ha neanche la capacità di assorbire la disoccupazione che si sta creando nel settore meccanico tradizionale bolognese. Quindi pensiamo che appunto questa saldatura da governi Confindustria serva anche a provare a mettere a tacere le proteste prima che possano cominciare a organizzarsi. E a proposito di guerra, c'è anche un appuntamento fra circa un mese, il 21 giugno, una manifestazione nazionale contro il riarmo. Certo, noi abbiamo lanciato direttamente dal 15 marzo, quando ci fu la famosa manifestazione di Serra a Roma, che noi organizzammo la contromanifestazione di Piazza Barberini, una proposta di una grande manifestazione nazionale contro il governo, contro il riarmo, per i diritti sociali. Abbiamo ottenuto questo fine settimana a Roma una riuscita assemblea a cui hanno già aderito decine e decine di realtà, e organizzeremo anche a Bologna tutti i passaggi di avvicinamento, le assemblee pubbliche per costruire questa manifestazione nazionale. Il 21 giugno ovviamente non è una data casuale, si terrà in quei giorni il vertice della NATO e pensiamo che si debba far sentire la voce dell'opposizione sociale contro lo scivolamento verso la guerra e la riconfigurazione dell'alleanza di guerra che è la NATO in questa nuova fase. A proposito di guerra, pensando al genocidio in Palestina, il governo italiano è uno dei pochi che continua a sostenere Israele. Nelle ultime settimane abbiamo visto insomma anche delle prese di posizione critiche, tranne che in Italia. Certo, il governo Meloni si è sempre distinto per essere tra i più servili verso il progetto colonialista e genocidiario del sionismo. Chiaramente la premier Giorgia Meloni si è sempre anche difesa, schierandosi in maniera esplicita con l'amministrazione Trump e il suo progetto di radere al suolo Gaza per farne una nuova gigantesca colonia israeliana. Anche di questo andremo a chiedere conto alla premier domani, quando sarà a Bologna, perché di fronte alla presa per fame e per sete di Gaza non c'è nessuna scusa e non c'è nessuna possibilità di stare zitti e neanche di balbettare.